Nelly Oleson. Guarda un po', esclamò mamma, comincia a piovere, vengono giù le cascate. Diceva così perché martedì sera un giovanotto che aveva una concessione nei paraggi era venuto a invitare Laura a uscire in calesse quella domenica. Giovedì sera era arrivato lo stesso invito da parte di un altro vicino e sabato sera, mentre tornava dal paese, un terzo giovanotto le aveva dato un passaggio col carro fino a casa e le aveva fatto anche lui la stessa proposta. Quella domenica Almanzo e Laura presero verso nord e andarono fino a Spirit Lake. Lungo la strada avevano passato le due concessioni di Almanzo. Su quella agricola c'era una baracchetta, su quella bosco invece non c'era nulla, salvo gli alberi. Almanzo disse che venivano su bene, li aveva piantati lui e doveva tenerli in vita per 5 anni. Poi quel bosco sarebbe diventato di sua proprietà. Gli alberi crescevano meglio di quanto si aspettava, perché se il terreno era adatto, come mai, si chiedeva, gli alberi non ci erano cresciuti da soli. I tecnici del governo hanno pianificato tutto, spiegò a Laura. Queste praterie si copriranno di alberi dal Canada fino giù al territorio indiano. Negli uffici del catasto hanno già stabilito dove mettere gli alberi e quei terreni non li danno in concessione a meno che tu accetti di piantarci un bosco. Una cosa è certa, se ne sopravvive anche solo la metà, questi alberi si spargeranno dappertutto e tra non molto qui saranno tutti boschi come all'est. Dici davvero? Chiese Laura stupita. Non riusciva a figurarsi quelle praterie trasformate in foreste come nel Wisconsin. Lo vedremo, rispose Almanzo. Io la mia parte la faccio, li terrò vivi quegli alberi se solo è possibile. Spirit Lake era un posto bellissimo, selvaggio. Percorsero la riva rocciosa dove l'acqua era profonda e le onde formate dal vento venivano a frangersi bianche di spuma sulle pietre. C'era un tumulo indiano vicino al lago. Si diceva che fosse un luogo di sepoltura, ma nessuno sapeva che cosa ci fosse dentro. E c'erano pioppi altissimi e pruni coperti di vite selvatica. Tornando, passarono accanto alla concessione degli Oleson. Era 1 miglio a est di quella di Almanzo. Era la prima volta che Laura vedeva la casa di Nelly Oleson e le fece un po' pena, così piccola e misera, in mezzo all'erba alta della prateria che ondeggiava nel vento. Il signor Oleson non possedeva cavalli, ma solo una coppia di buoi e tutto l'insieme pareva povero e rozzo. Ma Laura dette solo un'occhiata di sfuggita perché non voleva rovinarsi quella bella giornata pensando a Nelly Oleson. A domenica allora, disse Almanzo lasciandola alla porta di casa. Ora che era stata ai laghi Thompson e Harry e a Spirit Lake col suo curioso tumulo indiano, tutta la regione le pareva diversa. Chissà dove sarebbero andati la prossima volta. Domenica pomeriggio, guardando il calesse che veniva su da Big Slough, Laura scoprì con stupore che c'era qualcun altro seduto accanto ad Almanzo. Chissà chi era. Magari quel giorno Almanzo non aveva intenzione di andare a spasso. Quando i cavalli si fermarono, scoprì che l'altra persona era Nelly Oleson. Senza lasciare ad Almanzo il tempo di dire nulla, Nelly cominciò a strillare: Monta, Laura, vieni a fare un giro con noi. Serve aiuto, Wilder? Chiese papà avvicinandosi ai cavalli. Ringraziandolo, Almanzo gli porse le redini per aiutare Laura a salire. Lei era così stupefatta che riuscì a malapena a sedersi. Nelly le fece posto sul sedile e l'aiutò a sistemarsi la coperta sull'abito. Come partirono, Nelly cominciò a parlare, elogiò il calesse, fece commenti estasiati sui puledri, lodò la guida di Almanzo, ammirò l'abito di Laura. Oh, Laura, che amore quel cappellino! Non lasciava il tempo di rispondere. E che sogno vedere i laghi Harry e Thompson. L'aveva sempre desiderato tanto. E quante volte ne aveva sentito parlare. E il tempo quel giorno non poteva essere più perfetto. Un amore di giornata. E la prateria, che delizia! Non come certi posti dello stato di New York, si capisce, ma d'altronde non si poteva pretendere lì all'ovest, no? Che hai, Laura? Come mai così silenziosa? Chiese. Ma poi, senza aspettare risposta, continuò con un risolino malizioso. La mia, di lingua non vuole proprio stare ferma. È stata creata per fare cipete chop. A Laura venne mal di testa. Quel chiacchiericcio le rintronava nelle orecchie ed era furibonda. Almanzo invece sembrava allegro, quantomeno aveva l'aria di divertirsi. Arrivarono ai laghi. Passarono sulla lingua di terra che li separava. Nelly disse che i laghi erano un amore, i laghi le piacevano tanto, l'acqua le piaceva tanto, gli alberi erano bellissimi e anche la vita selvatica. E adorava, assolutamente adorava andare in calesse la domenica pomeriggio. E quanto era bello tutto quanto, e che amore che era! Il sole stava tramontando quando furono di ritorno e poiché la casa di Laura era più vicina, si fermarono prima lì. Ci vediamo domenica, disse Almanzo, dandole la mano per aiutarla a scendere dal calesse. E prima che Laura potesse rispondere, Nelly si intromise cinguettando. Ma certo, veniamo a prenderti. Che bella giornata è stata, vero? Una gita splendida. A domenica, allora, non scordartelo. Beh, arrivederci. Ciao, Laura, ciao. E Almanzo e Nelly ripartirono. Per tutta la settimana Laura non fece che dibattere dentro di sé se andare o non andare. Non c'era nessun gusto con Nelly tra i piedi. D'altro canto, se rifiutava, Nelly ne sarebbe stata felice perché era proprio quello che voleva, e figurarsi se poi non trovava modo di montare sul calesse di Almanzo tutte le domeniche. Perciò Laura decise di andare. La domenica successiva la gita cominciò più o meno come la volta precedente. Nelly non smise di chiacchierare un momento, era di ottimo umore, rideva e scherzava con Almanzo, ignorando Laura quasi del tutto. Era sicura del proprio trionfo perché sapeva che Laura non avrebbe retto alla situazione. Oh, Manny, come li hai addestrati bene questi puledri! Li sai portare che è una meraviglia! Tubava, appoggiandosi al braccio di Almanzo. Laura si chinò a rimboccarsi la coperta sotto i piedi e mentre si rialzava, con un gesto distratto lasciò che un lembo sbatacchiasse fuori dal calesse al vento della prateria. I puledri fecero un salto tutti e due insieme e schizzarono via pancia a terra. Nelly cominciò a urlare aggrappandosi al braccio di Almanzo, che invece avrebbe dovuto averlo libero. Per tenere i puledri. Con tutta calma Laura recuperò il lembo sbatacchiante e ci si sedette sopra. Quando lo sventolio dietro di loro cessò, i puledri si quietarono e ripresero il trotto. Oh, che spavento! Non ho mai avuto tanta paura in vita mia! Balbettava Nelly. Manny, i cavalli sono proprio bestiacce selvagge! Ma perché hanno fatto così? Non lasciarglielo più fare! Almanzo lanciò un'occhiata di sbieco a Laura e non disse nulla. Ma no, i cavalli sono brave bestie se li sai prendere, osservò Laura, ma forse questi non sono come quelli dello stato di New York. Ah, io non li capirò mai i cavalli che avete qui, là sono molto più docili, disse Nelly e cominciò a parlare dello stato di New York. Ne parlava come se lo conoscesse. Laura non sapeva nulla dello stato di New York, ma sapeva che neppure Nelly ne sapeva nulla. Almanzo invece ci era vissuto. Erano quasi arrivati al bivio per casa sua e Laura disse: Siamo così vicini ai Bost, sarebbe bello passare un momento a salutarli. Se ti fa piacere, rispose Almanzo. E invece di prendere a ovest, continuò diritto verso nord, passò la ferrovia e proseguì fino alla concessione dei Bost. Sentendo arrivare un calesse, il signore e la signora Bost uscirono sulla porta. Bene, bene, il calesse dunque è per tre, disse il signor Bost giovialmente. Eh già. Ha un sedile più spazioso, la slitta invece era fatta solo per due. Il calesse è un'altra cosa, disse Laura. Sembra, cominciò il signor Bost, ma la signora Bost lo interruppe. Su via, Rob, perché non chiedi invece ai nostri ospiti di venire dentro? Non possiamo fermarci, disse Laura, siamo passati solo a salutare. Abbiamo fatto una gita, spiegò Almanzo. E adesso torniamo indietro, dichiarò Nelly, come fosse lei a decidere. Laura invece disse. Andiamo avanti ancora per un tratto. Non l'ho mai fatta questa strada. Abbiamo tempo per allungare un po' il giro, Almanzo? Se tirate dritto verso nord, la strada è buona, disse il signor Bost. Guardò Laura con gli occhi che ridevano. Lei capì che doveva aver indovinato quello che aveva in mente e ricambiò lo sguardo divertito. Almanzo dette il via ai cavalli e proseguirono verso nord. Passata la concessione del signor Bost, attraversarono l'ultimo tratto della palude che correva in direzione nord-ovest dal Silver Lake. Là c'era un tratturo che svoltava verso il paese, ma era fradicio d'acqua e pieno di fango, sicché continuarono diritto. No, che stupidaggine aver preso di qui, non è bello per niente. Ma come si fa a dirla buona questa strada? Cominciò Nelly seccata. Non ha niente che non va finora, rispose Laura tranquillamente. Comunque non ci torniamo più qui, ribatté Nelly piccata. Ma poi ritrovò subito tutta la sua allegria per ripetere ad Almanzo quanto era bello andare a spasso, ovunque fosse, con una pariglia così ben addestrata e un conducente tanto affidabile. Trovarono un altro tratturo che deviava verso ovest e Almanzo lo imboccò e poche dopo arrivarono alla concessione degli Oleson. Mentre Almanzo l'aiutava a scendere, Nelly gli si aggrappò alla mano un istante per ribadire che era stata una gita splendida. Domenica prossima facciamo un'altra strada, vero Manny? Mi spiace aver insistito per passare da questa parte, Nelly, se ti è dispiaciuto tanto, disse Laura. Almanzo disse solo arrivederci e risalì accanto a Laura. Per un tratto, andando verso il paese, se ne stettero in silenzio. Poi Laura disse: Mi spiace se ti ho fatto fare tardi per accudire le bestie, con l'idea di prendere quella strada. Oh, non ha nessuna importanza, disse Almanzo. Tra il giorno e la notte fanno sempre 24 ore e non ho vacche da mungere. Tacquero di nuovo. Laura sentiva di essere una compagnia assai poco vivace dopo l'incessante chiacchiericcio di Nelly, ma doveva essere Almanzo a deciderlo. Lei non avrebbe mai fatto nulla per trattenerlo, ma nessun'altra ragazza l'avrebbe mai scalzata a poco senza che lui se ne rendesse conto. A casa, mentre erano tutti e due a terra accanto al calesse, lui disse: Allora andiamo di nuovo domenica? Non tutti e tre, rispose Laura. Se vuoi portare Nelly a fare un giro, sta bene, ma non venire a prendere me. Buonanotte. Entrò in casa con calma e chiuse la porta. Più di una volta quella settimana, passando accanto alla conca delle viole, che era ancora più verde di foglie che azzurra di fiori, Laura si chiese se Almanzo la domenica successiva sarebbe venuto a prenderla. E più di una volta, mentre i suoi tre piccoli alunni studiavano diligentemente, alzò gli occhi dai libri. E seguendo le ombre delle nuvole che correvano sulla prateria piena di sole, pensò la stessa cosa. Se non veniva, non veniva. E questo era quanto. Non poteva fare altro che aspettare la domenica. Sabato andò in paese e lavorò tutto il giorno dalla signorina Bell. Papà stava dissodando un campo a casa per seminare altro frumento, sicché Laura passò dall'ufficio postale a vedere se c'era posta per loro. Sì, c'era una lettera di Mary. Corse a casa. Non vedeva l'ora che mamma l'aprisse e la leggesse, perché certamente Mary diceva quando sarebbe venuta a casa. Non le avevano scritto nulla della stanza nuova e dell'organo che avevano comperato apposta per lei. Che sorpresa per Mary. Nessuno di loro in famiglia aveva mai avuto una sorpresa del genere. Ma una lettera di Mary, gridò entrando. Finisco io le patate, ma tu leggi la lettera. Disse Carrie. Mamma si tolse una forcina dai capelli e, aprendo con cura la busta, andò a sedersi. Spiegò il foglio e cominciò a leggere, e fu come se la luce si fosse spenta all'improvviso. Carrie lanciò un'occhiata spaventata a Laura e lei, dopo qualche istante, disse piano: Che cosa c'è, ma? Mary non vuole venire a casa, disse mamma. Poi si corresse subito: No, non voglio dire questo. Chiede se può passare le vacanze da Blanche. Scuoti le patate, Carrie, che si abbrustoliscono troppo. A tavola parlarono solo di quello. Mamma lesse la lettera a voce alta. Mary scriveva che Blanche abitava non lontano da Vinton e che ci teneva moltissimo ad averla ospite. Sua madre avrebbe scritto a mamma quanto prima per invitare Mary da loro, se loro non avevano nulla in contrario. A lei avrebbe fatto molto piacere andare da Blanche. Io sarei per lasciarla andare. Disse mamma. Farà qualcosa di diverso dal solito e non può che farle bene. D'accordo, disse papà. E così fu stabilito. Quell'estate Mary non sarebbe venuta a casa. Più tardi, mamma spiegò a Laura che Mary sarebbe tornata definitivamente alla fine degli studi e che magari non le sarebbe più capitata un'altra occasione del genere. Era una bella cosa che potesse svagarsi un po' e fare nuove amicizie finché era giovane, perché così avrà tanti bei ricordi. Ma quel sabato sera a Laura parve che fosse crollato il mondo e che nulla sarebbe mai più stato come prima. L'indomani, anche se splendeva il sole e le sturnelle cantavano, le parve una giornata senza gusto, e mentre andavano in chiesa col carro di papà, si disse che su un carro avrebbe viaggiato per il resto dei suoi giorni, perché oramai era sicura che quel pomeriggio Almanzo in calesse avrebbe portato Nelly. A casa però non si cambiò d'abito e, come le altre domeniche, mise il grembiule sopra il vestito color castagna. Il tempo non passava mai, ma alla fine furono le due, e quando guardò fuori dalla finestra, vide i puledri sulla strada che veniva dal paese. Si fermarono davanti a casa. Vieni a fare un giro in calesse? Disse Almanzo quando Laura uscì sulla soglia. Sì, esclamò Laura. Un minuto e sono pronta. Si fermò un attimo davanti allo specchio ad annodare il nastro della cuffia e vide un volto colorito e ridente che la guardava. Quando fu sul calesse, chiese: Nelly non voleva venire? Non lo so, rispose Almanzo. Tacque un istante, poi disse sprezzante: Pua, ha paura dei cavalli. Laura non disse nulla e dopo un altro momento di silenzio lui aggiunse: Non l'avrei portata la prima volta se non fosse che l'ho trovata per strada. Stava andando a far visita a qualcuno in paese, ma poi ha detto che preferiva venire con noi. Le domeniche a casa sua sono così lunghe e noiose che mi ha fatto pena. E sembrava che le facesse davvero piacere venire a fare una passeggiata, non sapevo che voi due non andaste d'accordo. Laura si stupì che un uomo che sapeva tanto di cavalli e di campi e di boschi sapesse così poco di una ragazza come Nelly, ma disse soltanto: No, non potevi saperlo perché non sei mai stato a scuola con noi. Sai cosa mi piacerebbe invece? Mi piacerebbe portare Aida una volta. D'accordo, disse Almanzo, ma oggi è bello essere per conto nostro. Era un bel pomeriggio, il sole era fin troppo caldo e Almanzo disse che i puledri ormai erano così avvezzi al calesse che potevano mettere il tettuccio. Lo tirarono su, insieme, usando ciascuno una mano, e spinsero a fondo corso lo snodo dei bracci di sostegno perché stessero dritti in posizione. Così ebbero l'ombra dai lati aperti. Entrava il fresco della brezza. Da quel giorno, lasciandola sulla porta di casa, Almanzo non disse più che sarebbe venuto la domenica successiva. Ma alle due il calesse svoltava sempre l'angolo della stalla di Pearson e quando i cavalli si fermavano, Laura si faceva trovare pronta sulla soglia. Papà alzava gli occhi dal giornale e le faceva un cenno di saluto e mamma diceva: Non fare troppo tardi, Laura. Venne giugno e fiorirono le rose. Laura e Almanzo si fermarono a raccoglierle lungo la strada e riempirono il calesse di fiori profumati. Poi, una domenica, alle due, nessun calesse svoltò l'angolo di Pearson. Laura non aveva idea di che cosa potesse essere successo finché a un tratto i puledri furono davanti alla porta e sul calesse c'era Aida che rideva di cuore. Almanzo era passato a casa del reverendo Brown e l'aveva fatta salire e poi, per farle una sorpresa, avevano attraversato la palude di Big Slough più a ovest, seguendo un itinerario che arrivava lì da sud anziché da nord. Così, mentre Laura guardava preoccupata verso il paese, Aida e Almanzo si stavano avvicinando dall'altra parte. Quel giorno andarono a Lake Harry e si divertirono un mondo. I puledri si comportarono magnificamente e se ne stettero buoni buoni mentre Laura e Aida scendevano a raccogliere bracciate di rose selvatiche. E quando si fermarono a guardare le piccole onde che venivano a frangersi sulla riva dei laghi, da un lato e dall'altro della strada, loro stettero lì ad aspettare pazientemente, mordicchiando una foglia qua e là. La strada tra i laghi era così stretta e bassa che Laura disse: Immagino che a volte finirà sott'acqua. Non che io sappia, disse Almanzo, ma forse molti anni fa i due laghi erano tutt'uno. Poi, per un po' stettero in silenzio. Laura pensava come doveva essere bello e selvaggio quel posto quando i due laghi erano tutt'uno. E la prateria intorno era popolata di bisonti e di antilopi che venivano a bere sulle rive. E lungo le sponde vivevano lupi e coyote e volpi. E sull'acqua facevano il nido, pescavano e volavano stormi innumerevoli di oche selvatiche, cigni, aironi, cicogne e gabbiani. Cos'è questo sospiro? Chiese Almanzo. Non so, non me ne sono accorta, disse Laura. Pensavo che gli animali selvatici se ne vanno quando arriva la gente. Vorrei che fossero ancora qui, invece. Beh, la maggior parte della gente li uccide, disse Almanzo. Lo so, disse Laura, ma non capisco perché. È bello qua, disse Aida, ma siamo un po' lontani da casa e ho promesso a Elmer di accompagnarlo in chiesa questa sera. Almanzo raccolse le redini e disse qualche parola ai cavalli, mentre Laura chiedeva: Chi è Elmer? Un giovane che ha una concessione vicino a quella di Papa Brown. Sta a pensione da noi, disse Aida. Mi aveva proposto una passeggiata questo pomeriggio, ma a me faceva piacere venire con voi per una volta. Tu non l'hai mai visto, Elmer? Elmer McConnell? Beh, c'è tanta gente nuova che non si riesce nemmeno a tenere dietro a quella che si conosce già, disse Laura. Mary Power esce col nuovo impiegato della banca di Ruth, le disse Aida. E Cap? Esclamò Laura. Che ne è di Cap Garland? Cap è tutto preso da una ragazza nuova che abita a ovest del paese, disse Almanzo. Oh, che peccato che non usciamo più tutti insieme, disse Laura. Era così divertente quando andavamo in comitiva con le slitte. Adesso sono tutti accoppiati. Si volge in primavera a pensier d'amore il cuore, disse Aida, citando Tennyson. Sì, oppure questa, disse Laura, a cui era venuta in mente una canzone di Robert Burns, e si mise a cantare. Fammi un fischio e uscirò, amor mio. Un fischio solo e verrò da te. E anche se tutti mi guardano male, a me che importa se sono con te. Dici sul serio? Chiese Almanzo. Certo che no, rispose Laura, è solo una canzone. Oh, ma se fischi, Nelly viene di sicuro, disse Aida ridendo. Ma poi aggiunse, però ha paura di questi cavalli, dice che sono pericolosi. Laura scoppiò a ridere allegra. Hanno fatto un po' i pazzi una volta che è venuta con noi. Com'è possibile? Disse Aida. Sembrano tranquillissimi. Laura si limitò a sorridere, rimboccando bene la coperta che non svolazzasse. Poi si accorse che Almanzo la sbirciava con la coda dell'occhio dietro la testa di Aida e ricambiò l'occhiata con uno sguardo divertito. Non le importava se aveva capito che aveva fatto apposta a spaventare i puledri per mettere paura a Nelly. Tornarono indietro chiacchierando e cantando per tutta la strada. E quando Almanzo e Aida la lasciarono davanti a casa, Laura chiese: Verrai di nuovo con noi domenica prossima, Aida? Mi farebbe molto piacere, rispose Aida arrossendo. È che magari vado a fare una passeggiata con Elmer. Barnum e Skip. Giugno finì e finì anche l'impegno di Laura a scuola. Venne pagato il saldo dell'organo. Laura imparò a suonare qualche nota di accompagnamento alle canzoni di papà, ma preferiva di gran lunga stare a sentire il violino. Del resto, l'organo era per Mary, quando fosse venuta a casa. Una sera papà disse: Domani è il 4 luglio, volete andare alla festa in paese, ragazze? No, facciamo come l'anno scorso, disse Carrie. Non mi va di stare in mezzo alla folla con i petardi che scoppiano dappertutto. È più bello sparare i nostri qui a casa. E avere tante caramelle a casa, anche Grace aveva detto la sua. Immagino che Wilder passerà di qui col calesse, Laura? Chiese papà. Non lo so, non ha detto niente in proposito, rispose Laura, ma non ho voglia di andare in paese comunque. La decisione è unanime, Caroline? Volle sapere papà. Sì, certo, se anche tu sei d'accordo con le ragazze, rispose mamma con un sorriso. Penserò a un buon pranzo e le ragazze mi aiuteranno a cucinare. L'indomani per tutta la mattinata ci fu un grande affare. Fecero il pane, una torta di rabarbaro e una ciambella dolce. Laura andò nell'orto e scavando con cautela con le dita sotto le piante delle patate, tirò fuori un po' di patatine novelle, badando a non danneggiare gli steli e le radici. Poi raccolse i primi piselli, scegliendo quelli col bacello più gonfio. Mentre le patatine e i piselli cuocevano e veniva preparata la salsa alla panna da metterci sopra, mamma arrostì un galletto. Avevano appena finito di cucinare e stavano giusto per mettere sull'acqua per il tè che papà tornò dal paese. Aveva comperato i limoni per fare la limonata da bere nel pomeriggio, i petardi per la sera e un bel po' di caramelle da mangiare nel corso della giornata. Porgendo i pacchetti a mamma, disse a Laura: Ho visto Almanzo Wilder in paese. Stava attaccando una pariglia nuova con Cap Garland. Quel ragazzo ha sbagliato mestiere, doveva fare il domatore di leoni. Ha per le mani due cavalli che dire selvaggi è dir poco. Tra lui e Cap Garland riuscivano a tenerli a stento. Se vuoi fare un giro in calesse questo pomeriggio, dice di tenerti pronta a saltar su, che lui non potrà scendere ad aiutarti, e di farti sapere che ha un'altra pariglia da scozzonare. Allora insiste a volerti rompere l'osso del collo, esclamò mamma. Spero proprio che se lo rompa prima lui, invece. Quelle parole erano così inusitate per mamma che tutti e tutte la guardarono sbalordite. Wilder li sa tenere i cavalli, Caroline, non preoccuparti, disse papà. Se mai ho visto uno che ci sa fare con quelle bestie, è lui. Vuoi che non vada, ma? Chiese Laura. Devi decidere tu, Laura, rispose mamma. Se tuo padre dice che non c'è pericolo, deve essere così. Pranzarono con calma, gustando ogni piatto. Poi mamma propose a Laura di lasciar stare i piatti e di vestirsi se voleva uscire. Finisco io. No. Hai lavorato tutta la mattina, ma, protestò Laura, posso rigovernare e avrò comunque tutto il tempo per vestirmi. Non preoccupatevi dei piatti, intervenne Carrie, li lavo io e Grace mi aiuterà ad asciugarli. Dai, Grace, quando avevano la nostra età, Mary e Laura lavavano già i piatti da un pezzo. Laura era pronta sulla porta quando Almanzo comparve con un paio di cavalli che lei non aveva mai visto prima. Un baio alto e slanciato, con coda e criniera nere e un grosso cavallo color marrone pezzato di bianco. Una delle macchie bianche sul lato del collo sembrava un gallo, e la striscia bianca della criniera marrone sembrava la coda del gallo. Almanzo fece fermare quella strana pariglia e Laura si avvicinò al calesse, ma il cavallo marrone si impennò, alzandosi sulle zampe posteriori e levando in aria le anteriori. Mentre il baio balzava avanti, Almanzo allentò subito le redini e mentre i due cavalli schizzavano via, le gridò: «Torno subito!» Laura aspettò che facesse il giro della casa. Quando fermò di nuovo i cavalli davanti alla porta, corse verso il calesse, ma dovette saltare indietro perché il pezzato si era impennato di nuovo e l'altro tirava. Papà e mamma erano venuti fuori anche loro. Carrie si era affacciata sulla soglia con lo strofinaccio in mano e dietro di lei faceva capolino Grace. Aspettarono che Almanzo ripassasse. Mamma disse: «Meglio non cercare di montare sul calesse, Laura.» Ma papà intervenne: «Andrà tutto bene, Caroline. Wilder ci sa fare.» Questa volta, quando fermò i cavalli, Almanzo li fece girare un poco, bloccando il calesse in modo da darle la possibilità di avvicinarsi tra le ruote. «Veloce!» le disse. Nonostante l'impaccio della crinolina, Laura fu molto lesta. Afferrò con la destra il braccio piegato del mantice, posò il piede destro sul predellino e mentre il pezzato si impennava e il baio scattava avanti, mise il piede sinistro nel calesse e si lasciò cadere sul sedile. «Accidenti a questi cerchi!» mormorò mentre si sistemava le gonne e si tirava la coperta sul vestito. Nel frattempo erano partiti a tutta velocità. «Non toccare il tettuccio!» l'avvertì Almanzo. Poi tacquero. Lui aveva il suo da fare a tenere i cavalli sotto controllo e Laura cercava di farsi piccola piccola sulla sua parte di sedile, lasciandogli tutto lo spazio di cui aveva bisogno per lottare coi cavalli e costringerli a rallentare.